Valsusa, sì. Con la Valsusa. Siamo qua a San Bertrand, dove è appena finito lo sgombero assai violento del blocco che era in corso sull'autostrada per impedire il cambio della guardia, come dire. Sono le 2:21, lo dico perché stiamo anche registrando, dunque sono le 2:21 del 28 febbraio. Ok, esatto, scusa. E niente, quindi dopo una, devo dire, purtroppo breve confrontazione, si è dovuto arretrare perché le forze dell'ordine erano in un numero, come dicevo prima, spropositato. Io vedo davanti a me adesso una fila di automezzi indefinibili da questa distanza, possono essere camionette, automobili o quant'altro, che composta da circa un centinaio di elementi, quindi sono più di 100 automezzi che sono in fila proprio a ridosso del punto dove c'erano le barricate, quindi hanno fatto questa forzatura in grande stile, e chiaramente le forze, devo dire, insomma, assai esigue, c'erano 150-200 persone sull'autostrada, hanno dovuto per forza di cose ripiegare. Rispetto all'ultima chiamata hanno continuato con un laccio di lacrimogeni fittissimo, ormai, diciamo, come dire, quasi tradizionale qua in Val di Susa, che ha definitivamente allontanato chi cercava in qualche modo di rendere il loro lavoro più difficile. E adesso, diciamo, tutto il gruppo che era all'autostrada si è ritirato e si sta attestando sull'altro blocco della statale, almeno per decidere cosa fare. Sappiamo che i turni di servizio degli agenti durano 6 ore, quindi il prossimo cambio è fra 6 ore, e già si sentiva qualcuno che dava appuntamento alle forze dell'ordine a fra 6 ore. Questo significherebbe circa alle 8, alle 7 dovrebbe essere, però c'è stato un po' di slittamento. Esatto, quindi niente, qui la situazione, per quello che posso capire, noi siamo arrivati stasera e ci sono vari blocchi in corso in tutta la valle proprio per cercare di impedire che si svolgano questi cambi. Qui insomma è stato un po' ritardato, però chiaramente la forza è talmente soverchiante che è impensabile riuscire a contenere una tale massa di persone, come dire, addestrate ad aggredire in qualche modo. E tutto questo succede apposta dopo una giornata che si è aperta con lo sgombero della baita. Ecco, sentite ancora sullo sfondo i colpi che stanno tirando. Lo sgombero della baita è l'allargamento del non cantiere e il tragicissimo evento che è occorso a Luca Abba, che ormai, come sapete, è precipitato da un'altezza di circa 15 metri, folgorato dall'alta tensione, mentre il rocciatore di turno cercava di acchiapparlo sopra il traliccio dove si era arrampicato. Su questo, insomma, ecco, adesso suonano le trombe notav alle mie spalle. E questo chiaramente impone una riflessione per il livello della repressione che si è alzata. Ora c'è una cosa da notare molto semplice: io oggi ho sentito anche su delle radio, dei media istituzionali, delle versioni veramente folli. La cosa che basta pensare è che in qualsiasi caso del genere, dove una persona normale o squilibrata che sia, si arrampica in una posizione che può risultare pericolosa, prima di fare un qualsiasi tipo di intervento, ecco, stanno arrivando adesso, prima di fare un qualsiasi tipo di intervento bisogna approntare una serie di protezioni che impediscano, nell'eventualità di un incidente, che qualcuno si possa ferire. Parlo della persona che magari è lì a dimostrare, come degli operatori di polizia che sa. Adesso stiamo arretrando perché sembra che stia arrivando un'altra. Sto arrivando da sotto? Sì. Ecco, sì, mi hanno confermato che stanno arrivando da sotto. Sono gli ultimi a fare riprese, ecco, li vedo. Sullo sfondo fanno una cinquantina di celerini che sono scesi dall'autostrada e si stanno dirigendo qua verso il blocco della statale. Quindi la loro intenzione è liberare anche la statale, sicuramente. In qualche modo sì, comunque sia di mettere i notar sotto pressione. Infatti si sta arretrando su una sorta di ponticello qua che scavalca il fiume Dora, e mentre, ecco, stanno arrivando anche dei mezzi. e stanno scappando indietro, ecco, le ultime persone che erano rimaste evidentemente indietro per non rimanere tagliati, perché i cerenini stanno arrivando da una traversa che mette a rischio coloro che erano rimasti indietro, infatti stanno correndo le ultime persone per evitare di venire tagliati fuori. C'è anche un mezzo che sta venendo indietro e vediamo che stanno lentamente in realtà avanzando da questo vicolo. Ci separa una barricata che qui è stato dato fuoco, mentre dall'altra traversa laterale stanno risalendo gli ultimi notav che erano ancora nei pressi dell'autostrada. Quasi tutte le persone adesso sono sul ponte, su questo ponte che vi dicevo, sul Dora, arretrando. Comunque, per riprendere il discorso che vi stavo facendo prima, la repressione si è fatta tale da obnubilare proprio la ragione e anche le procedure più elementari di sicurezza. Quello che è occorso a Luca Abba stanno avanzando. Quello che è occorso a Luca Abba è veramente qualcosa di inspiegabile, perché nessuno potrebbe fare un'operazione del genere senza mettere a rischio, a repentaglio la vita propria e di chi. Ecco, adesso stanno venendo in avanti, mentre un gruppo di notar cerca di opporre un po' di resistenza e ricominciano i lanci di lacrimogeni. Molto, corre uno sopra di me, siamo costretti a arretrare di nuovo su questo ponticello mentre parte fitto il lancio di lacrimogeni. Eccone un altro, stanno davanti, no, normale proprio. Ecco, sono arrivati all'altezza della barricata e la stanno superando. Ecco, io forse è meglio che mi affretto un pochino indietro, perché la situazione sta diventando un po' pericolosa. Noi siamo sulla ferrovia. Vai via. Cazzarola, ecco, qua c'è una macchina che rischiava di mettere sotto. Ecco, continuano i lanci, i lacrimogeni, e stiamo arretrando sul ponticello. E niente, quindi la situazione è ancora di pressione. Sì. È ancora di pressione. No, la pressione è pesantissima. Adesso siamo proprio a fianco di un piccolo cimitero qua di montagna, dove continua a piovere lacrimogeni. Niente, pesante la situazione. Quindi insomma, si pensava che col cambio di guardia si potesse essere un periodo poi di tregua fino alle 7, invece sentiamo che continua. Hanno deciso di spingersi oltre, cazzo, stanno proprio arrivandomi addosso, è meglio che mi allontano, wow, e niente, quindi hanno deciso di insistere e di caricare fino alla statale. Ora stiamo entrando nella macchine che sbattono, attenti, vi fate male, macchine che fanno delle manovre inconsulte, rischiando di investire persone e quadrupedi, c'è un cane qua, vieni qua, attento. Bimbo. Le macchine di chi sono? Le macchine delle... macchine di varie persone, penso sì, sia di notare che di gente che del paese che ha deciso di togliere la propria autovettura da questa zona che è diventata una zona di guerriglia nel paesino di Saint-Bertrand, dove ci si sta ritirando. Adesso siamo frente entrati in questa frazione, in realtà è una cosa piccolissima, mentre ecco, sembra che no, stiamo arrivando, stanno facendo un'altra carica, stanno seguendoci proprio fino dentro al paese. Dentro il paese, e adesso stiamo risalendo, siamo arrivati ora alla statale dove c'è l'altro blocco e non lo so cosa succederà, perché la situazione è un po' strana, non c'è nemmeno, cercano di dare la calma, qualcuno cerca di invitare la calma, ma la situazione è un po' assurda, perché questi continuano a inseguire i pochi che erano rimasti sotto. Adesso siamo arrivati proprio all'interno del paese, il tutto avviene sotto gli sguardi esterrefatti degli autotrasportatori bloccati qua con i loro camion dalle varie barricate, che guardano la scena un po' atterriti. Stanno ritornando indietro, ecco, alcune macchine, le ultimissime persone, mentre adesso da dietro l'angolo non scorgo più quel plutone di cerenini che stavano inseguendo. Forse sono rimasti all'altezza del ponticello che vi dicevo prima, vicino al piccolo cimitero. Ora mi avvicino per vedere un po' meglio, così vi descrivo la scena. Niente, sentiamo l'effetto dei lacrimogeni. a questo punto no, lacrimogeni, l'aria ne è praticamente satura, ci sono queste macchine che scappano, una visione un po' bizzarra, e sto cercando di sporgermi sperando di rimanere come Don Falcuccio si dice a Roma, però ecco, no ecco, sono fermo, ecco, li vedo adesso, sono un centinaio più o meno, ecco, che ci chiamano, tipo vieni qua, ci dicono addirittura, questo non ero io a parlare, però non mi permetterei mai un epiteto del genere. Ecco, sparo, pim, boh, altezza d'uomo, pim, ha sfiorato, ho sparato, ecco, spado lacrimogeni come ormai anche qui di consuetudine, altezza d'uomo, mi ha sfiorato, come arma. Meglio che mi defilo un attimo, perché direi la situazione rischia di farsi pericolosa. Wow, continuo il tiro, continuo il lancio, sono, sì, adesso sono all'altezza di quel ponticello che vi dicevo prima, a pochi metri da noi. C'è chi cerca di estinguere dei lacrimogeni con la neve, quella poca neve rimasta qua. La situazione è veramente paradossale, che in questo micro paesino avvolto dal fumo dei lacrimogeni, dalle barricate e di nuovo da questi autotrasportatori che si sono ormai chiusi nelle loro cabine ermeticamente proprio per evitare di respirare quest'aria insana prodotta. Lei è un autotrasportatore, eh? Perché? No, Radio Roma, cosa ne pensa di questa situazione? Noi siamo di una radio romana, siamo Radio Onda Rossa, stiamo facendo una diretta. Io sono il suo dottore, io aspettare qua dodici ore è arrivato qua. Ah, ma da dove viene lei? Where are you from? Greece. Yeah. Ah, Greece. That's the wrong place. Esatto, in Greece, pure in Grecia, questo viene dalla Grecia addirittura. Greece, you're used to this, siete abituati a questo. Ah, normale. Normale, but not qua. Not here, in Grecia. Yeah. Ma here too. No, Roma, parlati. Go to Roma and do that. Ma io qui pure. Okay. Pronto, abbiamo avuto lì. Pronto? Sì, sento. Sì, era questo l'onore ascoltatore greco, chiaramente per nulla impressionato dagli scontri, perché evidentemente da lui consigliava di andare a fare a Roma. Ora sarebbe difficile spiegargli in lingua tutta la questione del TAV. Un po' lunga, sì. Un po' lunga forse per la situazione, anche perché siamo sempre sotto, come dire, il tiro e questa attenzione morbosa da parte delle forze dell'ordine, che apparentemente però sono rimaste lì dove eravamo lasciate, continuando a sparacchiare a destra. Ma era stata interessante la testimonianza dell'autotrasportatore greco, che sono 12 ore che sta fermo qui, quindi vabbè, insomma, una pazienza evidentemente, come dire, accumulata rassegnata elleniche. Niente, adesso qui sono proprio all'altezza della barricata che chiude la statale, e praticamente si stanno riorganizzando, cercando di rinforzare la barricata nella strada proprio che porta a quel ponticello vicino al cimitero di cui vi parlavo prima. Sì. Quindi c'è un attimo di stallo dove almeno qui un po' si stanno provando a riorganizzare le difese. Scusate la voce, però, che qui l'aria è altro che salubre. Immagino. Niente, c'è un po' di convulsione perché cominciano. Io adesso mi riavvicino e mi sporgo lì da dove mi hanno sparacchiato prima. Attenzione. Bene. Sarò alla dovuta distanza per capire se sono rimasti lì. Prima era bizzarro, quando mi ero affacciato, quindi mi hanno visto, mi invitavano, sai, in questo modo un po' spavato. Ah, vieni qui. Un corteggiamento praticamente. Che ho declinato ovviamente. Un corteggiamento in pratica. Un corteggiamento. No, però vedo che sono arretrati, ecco, sicuramente sono arretrati, perché prima erano qui, ecco, adesso vedo che dei gruppi di notav in realtà hanno riguadagnato la posizione sul ponticello vicino al cimitero, mentre i celerini evidentemente hanno rinunciato a inseguire i manifestanti all'interno del paese di San Beltrano. Quindi niente, insomma, hanno fatto la loro mossa, tanto per compattinare un po'. Sì, e adesso sono riarretrati verso quelle altre barricate che dicevo più avanti, prima del ponte. Evidentemente anche loro hanno bisogno di riprendersi, non lo so, insomma, sono, se ne sono andati a questo punto. Va bene, direi che d'accordo. A questo punto forse approfittiamo per fare un attimo di pausa, magari metti un po' di musica. Sì. Mentre ecco qua, sentite, ti lascio con questo slogan ormai celeberrimo. Ci sentiamo più tardi, ok? A più tardi, a più tardi. Ciao. Ciao.